Iniziamo allora questa presentazione per anticipare l'incontro di mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 21 presso Auditorium 1 maggio. Andrà in scena Il Carnevale degli Animali e altre fantasie con Peppe Servillo e Pathos Ensemble. Peppe Servillo è qua con noi, diamo il buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo conosciuto l'aspetto attoriale importante, il talento, l'ispirazione in diverse interpretazioni, ma in questo caso è un'interpretazione un po' particolare, un'interpretazione bestiale. Come si è trovato in questo confronto? Allora, siamo arrivati a questo progetto con il Pathos Ensemble e mi piace ricordare Marcello Mazzoni, che purtroppo è scomparso la primavera scorsa, che in coppia con Silvia Mazzon, la sua compagna, ha dato vita a questo progetto con me e con Mirko Ghirardini, che è un omaggio ovviamente a Camille Saint-Saëns. Noi partecipiamo appunto a questa rassegna di classica all'Auditorium 1 maggio e in questa serata io da attore affianco ai singoli brani della suite, ognuno dei quali dedicato a un animale, il corrispettivo animale descritto però piuttosto che in note in parole secondo i versi di pubblicati per Einaudi da Franco e Marco Albi, che è appunto la raccolta che si intitola Animali in versi. Noi dedichiamo per l'appunto questa serata, come dice Marco Albi stesso, ai nostri cosiddetti fratelli minori, ai quali qualcosa di magico e di naturale ci lega intimamente. Ai quali dobbiamo tantissimo anche, perché... Ai quali dobbiamo tantissimo anche nell'indagare la nostra natura stessa, certo, riflessa nelle loro movenze e nel loro temperamento. E infatti per atteggiamento, anche nell'interpretazione, le saranno venute in mente, oltre che delle emozioni, anche dei parallelismi reali e concreti. Ma quelli li suggerisce l'autore musicale, Camille Saint-Saëns, appunto. In alcuni brani, per esempio, riproduce proprio con il violino in maniera quasi onomatopeica, cioè richiamando con il suono il verso dell'animale, riproduce per esempio il raglio del somaro, o riproduce il becchettare delle galline, riproduce il modo di correre sventato degli emioni, cioè gli asini, i cavalli, gli equini che corrono liberamente sui prati selvaggi. Nell'acquario riproduce il silenzio e la magia, per l'appunto, di un mondo acquatico animato solo da pesci, grandi e piccoli che siano, ed è questo forse uno dei brani più famosi dell'intera suite, che il pubblico più popolare sicuramente riconoscerà perché è usato spesso al cinema o anche addirittura nelle pubblicità. È ovvio che non si fanno fratelli e fratellastri, però tra fringuelli, gatti, cani, lucertole, asini, tartarughe, ce n'è qualcuno che è stato, diciamo così, motivo di affezione particolare? Beh, io devo dire, una delle poesie che più mi affascinano di Franco Marco Albi è quella dedicata agli scimpanzé, proprio perché mi è capitato personalmente nelle mie visite da bambino e anche da adulto ai giardini zoologici, parchi, diciamo, bioparchi che è chiamati giustamente adesso, di restare affascinato nell'osservare il mondo, le relazioni che ci sono soprattutto fra le scimmie antropomorfe, perché ovviamente inevitabilmente richiama il nostro modo di fare società e ci affascina e ci inquieta allo stesso tempo. Sì, il dialogo diventa molto forte in questo caso. Io personalmente, quando ha citato l'asino, io mi sono, non per motivi, anzi, l'asino è un animale molto nobile, no? Portava la verità, è stato anche portato in diversi stemmi araldi e diverse sensazioni di nobiltà. È un falso ideologico che viene usato come aspetto offensivo. Anche gli asini hanno avuto la loro parte in questa scrittura. Assolutamente, con la loro mitezza, con la loro furbizia, grandi poeti hanno dedicato, sì, delle pagine bellissime. Ilia Scanetti, per esempio, uno fra tanti, nel suo soggiorno in Africa, ha dedicato grandi pagine a questo animale mite e dolcissimo, che oggi sembra ridiventato anche un animale domestico. Alcune persone lo utilizzano nei giardini per tenere puliti i prati, dato che brucano continuamente. Certo, certo. E quelli che invece così sul momento ci procurano anche un po' di ritrosia, non so, lucertole, rettili, così, hanno anche qui un'interpretazione tale alle caratteristiche che ho appena citato. No, in realtà no, in realtà forse l'indagine avrebbe dovuto durare più a lungo per scoprire anche questo aspetto, perché io penso che comunque questo aspetto si mescola anche alla simpatia che noi proviamo, sì, ovviamente degli animali, cioè loro ci trasmettono sia una vicinanza, quindi una prossimità, un affetto, un'empatia, però al tempo stesso noi percepiamo anche la distanza e questo ci inquieta a tratti, perché ovviamente ci rimanda alle domande che resteranno sempre senza risposte, a meno che uno non abbia una fede forte riguardo l'origine del nostro mondo e della nostra vita. Allora chiudo con una banalità: lei Servillo ama gli animali? Io amo gli animali, però devo dire, nel mio rapporto per esempio con gli animali domestici, i cani e i gatti in particolare, ho sempre coltivato una certa distanza quando mi erano estranei. Quando invece facevano parte della mia famiglia, loro mi hanno sempre scelto all'interno della famiglia estesa mia d'origine come compagno di vita. Questo è avvenuto sia con un cane che con un gatto. Quindi con l'animale io cerco comunque un rapporto che è personale, che non è il mio rapporto con gli animali in genere, ma è il mio rapporto con quell'animale. Quindi, come Anna Maria Rutese, la grande scrittrice napoletana, bisogna considerare gli animali delle piccole persone. E l'appuntamento è mercoledì 4 marzo alle ore 21, Auditorium 1 maggio, andrà in scena Il Carnevale degli Animali e altre fantasia con Peppe Servillo. Vi aspettiamo con grande piacere. Grazie di cuore, un abbraccio. Grazie. A voi.